L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo al Festival dell'Acqua al Castello Sforzesco di Milano dal 5 al 9 ottobre prossimi, promosso da Utilitalia, che nasce, forse lo ricorderete perché ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, dalla fusione di Federutility e Federambiente. Saranno affrontati in quel contesto diversi temi dedicati alla risorsa acqua, il dissesto idrogeologico, le infrazioni comunitarie, i chioschi dell'acqua, l'acqua nella carta di Milano, insomma ci sono un po' tutte le sfaccettature. Noi oggi ne sceglieremo uno un po' per invitarvi a partecipare e lo facciamo con i nostri ospiti. In studio con noi c'è Mauro Dascenzi, che è vicepresidente di Utilitalia, benvenuto. Grazie, buongiorno. E in collegamento da Roma c'è Mauro Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, Dascenzi, cominciamo intanto col dire un po' che cosa ci sarà a questo festival. Cerchiamo, io ho dato due indicazioni, ma insomma voi nel metterlo a punto che cosa avevate in mente? Sono due anni che lavoriamo a questo festival e lo abbiamo già programmato in funzione dell'Expo, anzi siamo parte dell'Expo, abbiamo una convenzione con loro, abbiamo lavorato assieme. Il tema dell'acqua è quello della fame, dello sfamare il pianeta. Per noi è quello di setarlo. Acqua comunque non c'è cibo. Sì, non solo bisogna dissetare gli uomini, ma non si produce nulla se non c'è l'acqua. E questo è il tema fondamentale. Lo affrontiamo sotto tanti punti di vista. L'abbiamo un po', per rimanere un po' qui da voi, nel vostro stile, un po' strutturato come fosse un giornale, no? Ci sarà la pagina degli interni, ci sarà la pagina della cronaca, della cultura, della scienza, degli spettacoli, questo. E il tipo di target a cui si rivolge, io ormai da anni lo definisco, quando l'abbiamo inventato il festival, questa è la terza edizione, un po' come gettare il sasso in uno stagno. In che senso? Non tanto perché vuole smuovere lo stagno, che è banale questa rappresentazione, ma perché si creano una serie di cerchi concentrici. Allora, diciamo, i cerchi più ristretti sono quelli dedicati ai tecnici, dedicati agli addetti ai lavori, alle nostre aziende, grazie alle quali siamo riusciti a realizzare questo festival, agli sponsor, eccetera. Ce n'è uno più grande, che è l'elaborazione culturale. Filosofi, intellettuali che vengono chiamati a cimentarsi con un tema un po' più alto dell'acqua, cioè i primi devono occuparsi di come dare tutti i giorni l'acqua a qualcuno, i secondi possono permettersi di astrarre un po' di più il tema. Il terzo cerchio è il popolo. Noi vorremmo che fosse una festa di popolo, che fosse la festa di Milano. Infatti tutti i nostri spettacoli... Milano ha anche riscoperto l'acqua negli ultimi anni, possiamo dirlo un po'. Sì, Milano ha la fortuna di averne tanta, vediamo quanto piove. Beh, però c'è una tradizione da Leonardo, avremo un'iniziativa su Leonardo dell'acqua, insomma, per capire, e anche una festa, un festival di popolo, che fosse una festa milanese. Tutti gli spettacoli, tutte le iniziative sono gratis ed aperte, e quindi vogliamo dare un po' questa caratteristica del mondo dell'acqua, la riflessione dell'acqua che si apre con un ventaglio, sorretta da grandi ideali e da grandi valori. Noi ci sentiamo responsabili non solo nel nostro paese, ma nel mondo, sull'uso che verrà fatta di questa risorsa per le prossime generazioni, non solo per noi ma per le prossime generazioni di tutto il mondo. Tema estremamente drammatico oggi, dinanzi alle migrazioni di massa che noi abbiamo, che si dimentica troppo spesso derivano anche da dalla problemi fame. Esatto. dalla fame, mancanza di cibo, mancanza di acqua, certo, mancanza per incominciare a coltivare una barbabietola o comunque una canna, ancora avere lo zucchero. Occorre avere l'acqua, quindi questi sono i temi, con questa visione lo vogliamo affrontare. Le piace, Grassi, questo modo di porre la questione? Sì, voi avete un approccio più tecnico, ovviamente, essendo una struttura. Noi abbiamo i nostri due hashtag, sono acque pulite e acque sicure, diciamo. Siamo però inseriti nel discorso che sta facendo Mauro Dascenzi, perché l'acqua è il centro dei nostri interessi. Ovviamente noi siamo interessati ad un rapporto nuovo, per esempio, delle città e dei corsi dei fiumi. Siamo interessati al fatto che nelle città scorra un'acqua pulita, e purtroppo questo a 20 anni dalla legge Galli ancora non è così in Italia, e che i fiumi non siano un pericolo continuo per le popolazioni. Ecco, diciamo, quindi per noi l'acqua dentro la grande narrazione, si potrebbe dire, faceva da scienti, per noi l'acqua ha queste due principali connotazioni: deve essere un rapporto città-fiume nuovo in cui il fiume ritorni ad essere il centro di una cultura e di un benessere della popolazione, in cui poi arriva anche l'acqua per bere, l'acqua per i bisogni della popolazione. Ecco, ma insomma, in primo luogo le acque dei fiumi devono essere acque pulite e acque sicure. E devono essere acque gestite però da scienze. Io mi ricordo, lei l'anno scorso ci sentimo, lei non si ricorda, io poi ho usato no, molto. No, io mi ricordo benissimo. Si ricorda di lei, tutto? Sicuramente. Sì, meno male. Mi ricordo che lei insisteva molto sul tema della gestione delle acque in città, penso anche agli scarichi fognari e alla difficoltà che si ha, no? Parlavamo prima di Milano, che quando piove un po' troppo va in affanno, insomma lì ce n'è di lavoro per la struttura di missione, ma anche per voi. Guardi, io penso che la retorica sull'acqua, che è stata consumata a piene mani in questi anni, abbia in realtà impedito di vedere il problema vero dell'acqua, no? Questa sacralità, si ammanta di poesie e di utopia, tutte cose vere, cioè l'acqua è indispensabile, quindi da questo punto di vista è sacra. Io dico sempre che l'acqua non è di per sé giusta. L'acqua forse può essere l'esempio della maggiore ingiustizia che si consuma in natura. Lei pensi, arriva e danneggia perché arriva troppa, invade, distrugge, oppure d'altra parte lascia popoli alla fame perché non piove. E i cambiamenti climatici acutizzano queste cose, generalmente colpiscono tra l'altro i più deboli. Questa colpisce i più deboli, perché non sono le ville di Rio de Janeiro che sono colpite dalle alluvioni, dalle poggio alluvioni, sono le favelas. Certo, è il Bangladesh. Quindi, Bangladesh non è, quindi è profondamente ingiusta nel suo comportamento l'acqua. Non è sacra, non è. Il punto è che la civiltà, la cultura, la tecnica degli uomini la devono rendere giusta e devono distribuirla equamente, e sono d'accordo con chi mi ha preceduto, e rispettarla garantendone la qualità, che è fondamentale. Allora, questo lo fanno gli uomini, non lo fanno le divinità. E gli uomini per farlo hanno bisogno di cultura. Cioè bisogna sapere dove andare, bisogna avere un'idea, di politica direi, di politica. La politica sceglie cosa fare e cosa non fare. Quindi di politica, della cultura, cioè della visione, della tecnologia e delle risorse economiche. Queste sono le cose. Allora arriva la gestione. Una gestione industriale ed efficiente è una gestione che, se orientata in questa direzione, perché a monte c'è sempre la scelta politica di fare una cosa o di farne un'altra, è naturalmente produttiva e riesce a raggiungere gli obiettivi. Senza questo non si raggiungono gli obiettivi. A me sembra molto importante quello che è stato detto, perché questa retorica dell'acqua, per esempio, non ci fa parlare, perché non è chic, dell'acqua sporca, delle fogne. Noi parliamo, ma noi abbiamo il dovere di restituirla alla natura pulita. Perché generalmente ce la dà abbastanza pulita, non sufficientemente pulita, dobbiamo pulirla, dobbiamo trattarla per mandarla agli uomini. Allora, per fare questo occorre che tutto il ciclo sia controllato, che tutto il ciclo. E questo occorre una capacità industriale. La capacità industriale è data da risorse. Qui potremmo aprire un nuovo capitolo, ma non voglio farla troppo lunga. Allora, si sappia che in Germania vengono dedicate risorse per ogni metro cubo di acqua pubblicata, di acqua usata, attorno ai 5 euro a metro cubo. In Francia attorno ai 4, in Danimarca, che pure non mi sembra gli manchi l'acqua, i 6 euro al metro cubo, in Italia 1.3. Allora, o noi siamo nella fase miracolistica sacrale dell'acqua, per cui anziché moltiplicare i pani e i pesci o trasformare l'acqua in vino, trasformiamo tutto il resto in acqua pulita, oppure in realtà non stiamo dedicando e non dedichiamo risorse sufficienti. Abbiamo per lo più, noi parliamo di procedure di infrazione. Sì, adesso parliamo anche di quello. Quello è un grande capitolo. Guardiamo invece laddove i depuratori sono fatti. Sì. Io vi invito ad andarli a visitare. Molti di questi, non tutti naturalmente, sono inferni danteschi per chi ci lavora. Ci siamo? Sono a norma sicuramente. Puzze e cose sgradevolissime. E se si rompe, in molti posti, si rompe un ciclo, si rischia di andare nella, risparmio la parola, veramente, chiara, fisicamente, sì. Perché non depura più. Se lei va in uno dei paesi che ho citato, sembrano sale operatorie dove lavorano. E il divario, e se è se si rompe un ciclo, cifra. Ce n'è uno pronto. Il divario è l'approccio. È l'approccio diverso, la scelta della politica totalmente diversa che viene fatta da una cosa all'altra. Da Quindi una parte o dall'altra. Non c'è stata una scelta politica in questo senso negli anni passati? Non c'è stata una scelta politica, anzi la scelta politica c'era ed è stata quella della legge Galli. Tutti un po' si sono adoperati a sminuirne la portata, e perché insomma vorremmo tutti andare sull'autobus senza pagare il biglietto. Allora, avere dei risultati tanto più emergenti oggi con il dissesto idrogeologico che abbiamo nel nostro paese, noi siamo soprattutto i primi alleati del riassetto idrogeologico del paese, e occorre naturalmente pagare il biglietto. E bisogna dire chiaramente chi lo deve pagare. Noi negli anni passati... Bisogna stabilire un'equa cifra. Allora, negli anni passati lo Stato ha sprecato immense risorse in questo. Io mi ricordo i cosiddetti fondi FIO, fondi per lo sviluppo e l'occupazione, fondi investimenti occupazionali. Molti di questi fondi dedicati alle opere idriche non sono solo stati oggetto di malaffare, ma si sono fatte opere inutili, perché l'obiettivo principale era, da una parte sì, sviluppare l'occupazione, ma in realtà fare opere, magari opere insensate, dal punto che hanno invece non hanno, potevano farsi le stesse opere magari con mettendo in sicurezza il territorio. Lo dico opere idriche, ma mettere in sicurezza il territorio vuol dire anche permettere poi a noi di fare delle buone. Quindi lo Stato ha esaurito il suo investimento ed ha contribuito al dissesto economico finanziario con gli sprechi degli anni passati. Adesso va affrontato questo tema dell'investimento. Purtroppo vi è stata una contesa ideologica attorno a questi temi che hanno ancora una volta messo in secondo piano l'aspetto vero, che è quello del reperimento delle risorse. Io adesso devo fermare perché abbiamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra un istante. Vorrei ovviamente sentire su questi temi l'opinione di Mauro Grassi. Certamente. Scienza delle donne per cambiare il pianeta è il tema della 16ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario internazionale della Fondazione Bellisario. 20 relatrici provenienti da tutto il mondo e 300 tra imprenditrici, manager e professioniste si confronteranno a Milano venerdì 2 ottobre alle 15 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e sabato 3 ottobre alle 10 in Expo Padiglione Italia. Non perdere l'appuntamento con la leadership femminile. Per accreditarsi, info@fondazionebellisario.org. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. In questa puntata stiamo parlando, o meglio, siamo partiti dal Festival dell'Acqua che si darà al Castello Sforzesco di Milano dal 5 al 9 di ottobre. Adesso stiamo parlando con i nostri ospiti, che sono Mauro Dascenzi, vicepresidente di Utilitalia, e Mauro Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, proprio di infrastrutture. Sì, diciamo, la domanda veniva fatta e che sorge spontanea. A 20 anni dalla legge principale che doveva risolvere problemi, come prima diceva Mauro Dascenzi, di dare dei depuratori, di dare controllo dell'acqua, evidentemente c'è stata una sottovalutazione, si è fatta una legge e si è lasciata lì. Non è un caso che il governo nato, il Presidente del Consiglio, fa una struttura di missione proprio alla Presidenza del Consiglio, cioè per riportare al centro dell'attenzione del governo questi temi, e questo dobbiamo fare, questo stiamo facendo, riportando quelle cose come le fognature al centro dell'attenzione politica, perché questo è un paese che, se le fognature non sono al centro dell'attenzione politica, continua ad essere un paese di serie B. Io direi tre cose rispetto alle discussioni che venivano fatte. Intanto, per fare queste cose L'acqua è un bene pubblico comune, c'è stato un grande dibattito, c'è ancora un grande dibattito, ma un bene pubblico che per diventare un bene utile alle persone ha bisogno di forti investimenti. Come diceva Mauro D'Ascenzi, cioè non esistono l'acqua che la prendi dalla sorgente, la porti nelle case. Qui ci sono bisogno di grandissimi investimenti, sia nella fase d'adduzione dell'acqua, di fabbisogno dell'acqua, sia poi nel momento in cui la devi rendere pulita ai fiumi. Gli investimenti italiani sono molto bassi. In Europa si investe oltre 50, si arriva anche a 100 euro ad abitante, noi siamo intorno ai 30 euro per abitante, quindi abbiamo cifre bassissime. 30 euro sono le cifre delle aziende delle parti d'Italia dove ci sono le aziende, sì, quelle che funzionano, diciamo, dove ci sono i comuni decantati come i veri gestori dell'acqua, siamo intorno a 10 euro ad abitante, quindi vuol dire quasi senza investimenti. Allora, qui dobbiamo aumentare e dobbiamo far modo che in Italia da circa un miliardo e mezzo di investimenti l'anno si vada almeno a 3 miliardi di investimenti, 50 euro ad abitante. Quindi bisogna raddoppiare la cifra degli investimenti. Secondo, gli investimenti che ci sono stati in Italia, pubblici, sono di un certo rilievo, noi ne abbiamo trovati circa 12 miliardi investiti in questo settore, ebbene ancora oggi dopo decine di anni abbiamo ancora 3 miliardi e 300 milioni che non sono stati neppure avviati a cantiere. 2 miliardi e che cosa gli manca lì? Sempre la progettualità. Gli manca tutto, gli manca di portarli a cantiere, tant'è che vengono, noi con Italia Sicura e col Ministero dell'Ambiente stiamo commissariando queste attività. Cioè non vanno lasciate a dormire per altri 10 anni, devono essere commissariate, perché non possiamo avere dei soldi disponibili e l'acqua sporca che continua ad andare nei fiumi e nel mare. E quindi noi commissariamo, abbiamo già commissariato in Sicilia 2 o 3 interventi e continueremo in questo modo, in Calabria, in Sicilia, in altre regioni d'Italia, a commissariare gli interventi perché devono essere fatti. Quindi alzare il livello degli interventi. I soldi che ci sono vanno spesi e poi. E i soldi che non ci sono dove li prendiamo? Brava. I soldi che non ci sono vanno presi in due modi. Stiamo facendo un piano pubblico per i prossimi 5 anni, in cui metteremo circa 2 miliardi, che sono una piccola cifra, ma sono una piccola cifra che serve per moltiplicare gli interventi. E gli altri vanno presi nelle tariffe. Io sono fiorentino, quindi lo so, la Toscana paga le tariffe più alte d'Italia, ma c'è anche un livello di investimenti molto elevato. Più alte d'Italia, pro capite. Cioè, più alte, certo, d'Italia. Noi bisogna finire. Aveva anche alcune criticità notevoli almeno tempo fa sulle depurazioni, mi pare. Sì. C'aveva Firenze che aveva un'area da depurare, un depuratore che doveva collettare circa 200.000 abitanti equivalenti ed è stato concluso con interventi molto mirati, con un intervento che è arrivato a conclusione e che ha superato tutte le difficoltà che c'erano. Quindi oggi l'Arno non ha più scarichi civili dall'età del Medioevo ad oggi, quindi è un fatto positivo. Storico. Bisogna che questo accada in tutta Italia. Noi abbiamo pezzi interi d'Italia dove le tariffe non vengono pagate. Ma che tariffe si pagano da Scienzi d'Acqua in giro per l'Italia? Perché ci devono essere grandi disparità, quanto capisco. L'acqua dipende anche molto dalla disponibilità. Io penso forse che bisogna arrivare ad una tariffa, unica in Italia. Ad una tariffa unica, perché vi sono situazioni sicuramente vantaggiose. Voi in Milano avete il problema di spendere i soldi per buttarla via l'acqua, sì, perché c'è qualcun altro cresce continua. Roma, per esempio, ha condizioni di fornitura molto buone dell'acqua, no? Addirittura c'è ancora un acquedotto che funziona a 2000 anni, lo fece fare Augusto da Mecenate, quindi insomma ci sono aspetti positivi, altre condizioni dove è costosa, dove occorre il desalinizzatore, quindi abbiamo una grande varietà di costi più che di prezzi. I prezzi oggi finalmente sono regolati dall'authority dell'acqua e comunque adesso io in questo momento non conosco la media nazionale, ma secondo me siamo non la conosco precisamente, un ordine di grandezza attorno a un euro e quattro 1,4 euro. Grandi disparità, come dicevo. Io penso che non sarebbe male se noi individuassimo invece una tariffa media, dove possa anche la tariffa incorporare un meccanismo di solidarietà, e cioè chi ha l'acqua in abbondanza e gli costa poco, in qualche modo paga anche un pezzo degli investimenti di un altro pezzo di paese dove magari va in vacanza e ha tutto l'interesse ad avere il depuratore, o dove il figlio troverà lavoro perché lì si sviluppa un'attività economica. Perché guarda, la mancanza, come diceva Grassi prima, la mancanza principale di depurazione è al sud, dove ci sono due o tre aspetti di cui bisogna tener conto: la sua forte vocazione turistica, i posti più belli del mondo sono lì, e quindi acque pulite, acque depurate vuol dire molto per il turismo. E poi il sud non è rappresentato, come spesso viene rappresentato, da chi non legge i numeri, ma per ideologia. Non c'è un unico sud, c'è un sud anche fiorente e molto attivo, che primeggia nel mondo. Quindi noi, se superassimo certe disparità, anche il milanese, che potrebbe essere pagato, chiamato a pagare qualcosa di più perché l'Italia funzioni, da questo funzionamento dell'Italia in generale troverebbe grande giovamento. Quanto di questa tariffa viene ora destinato agli investimenti? Anche lì è una disparità. C'è molta disparità perché dipende molto dai costi di gestione, quindi possiamo parlare di un 25-30%. Che però, c'è molta tariffa bassa, molta disparità. Anche là dove non vengono spesi questi soldi. Ci sono già nella tariffa meccanismi di solidarietà, soprattutto interambito. Per esempio, cifre destinate alle comunità montane, qui ritorniamo all'idrogeologico, è che non sempre questi fondi, a volte se questi fondi pure esistono ma tanto frammentati, non riescono ad affrontare i problemi, che so, della messa in sicurezza di una montagna. Ci siamo, il 3% dedicato alla comunità montana, e molte altre volte magari sono più serviti a ripianare i bilanci deficitari delle comunità o a fare qualche sagra rispetto a fare degli interventi. Quindi anche quelli andrebbero concentrati, governati probabilmente da un'autorità centrale come quella capeggiata da Grassi. Anche perché in questi tempi non è solo un problema di qualità dell'acqua e investimenti, ma è un problema anche di sanzioni europee, che ora il primo gennaio cominceranno a dover essere pagate dalle regioni italiane, da alcune regioni italiane. Siamo intorno a 200 milioni l'anno da pagare. Non è una cifra irrilevante, si parla tanto di sprechi. Noi inizieremo a pagare nel 2016 circa 200 milioni di sanzioni perché non abbiamo pulito l'acqua. È una cosa indegna, cioè non deve accadere, insomma, ecco. Io a questo punto vi devo fermare perché il tempo a nostra disposizione è finito, però invito gli ascoltatori a guardare proprio sul sito di Italia Sicura l'hashtag Acque Pulite. Lì c'è esattamente la situazione anche per tutti i comuni italiani, quindi se uno ha la curiosità di sapere che cosa succede a comune X, va e vede se ci sono delle infrazioni, che tipo di infrazioni, e la situazione della sua area, perché magari dice: è un problema che no, solo mio, oppure di tutta questa valle, no, se stiamo in montagna o così via. Quindi lo trovo veramente uno strumento utile e vi ringrazio per averlo messo a punto. L'abbiamo consultato anche poco prima della trasmissione. Grazie molte ai nostri ospiti, che ricordo essere Mauro Descenzi, che è il vicepresidente di Utilitalia, Mauro Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, e vi rimando anche all'appuntamento del Festival dell'Acqua dal 5 al 9 di ottobre a Milano Castello Sforzesco, che ha un sito anch'esso, il Festival dell'Acqua, e si trova. Poi si trova. Grazie a tutti e buon proseguimento d'ascolto.